Abbiamo in collegamento Ottavia Monicelli, ben ritrovata su queste frequenze, Ottavia. Ciao a tutti. Come stai? Sto bene, grazie. Voi? Tutto bene, tutto bene. Lei? Lei tutto bene? Diamoci del lei. Diamoci del lei, manteniamo le distanze. Manteniamo le distanze. Allora, ricapitolando anche per chi ci ascolta, magari per i più giovani o chi ha scoperto la radio da poco, tuo papà Mario Monicelli era un fedele ascoltatore di questa radio, interveniva spesso nella trasmissione di cinema che conduco da un po' di anni, Visionari, non dal giovedì, e poi Ottavia si è avvicinata alla radio. Io ho avuto il piacere di condividere con lei una trasmissione che lo scorso anno per 17 puntate ha portato qui in radio attori ed attrici note e noti a raccontare delle favole con una base musicale dal vivo del nostro David Shackerl. Una trasmissione, tra l'altro, Ottavia, che continua ad avere un successo, perché c'è la pagina Facebook, continua ad avere gradimenti, mi chiedono ma non ricomincia, ma che... Perché non ricomincia? Io non so cosa rispondere. Diciamo che ci siamo presi un momento di pausa. Esatto. Allora, nel frattempo tu hai realizzato un libro. Sì, ho scritto un libro che è nato dopo che ho scritto un articolo per un giornale per ricordare mio padre. La casa editrice, la Stedding & Kupfer, mi ha contattato per scrivere appunto questo libro partendo da questo articolo. Io all'inizio ero molto titubante perché non sapevo, so scrivere, però non sapevo se ero in grado di scrivere un libro. Poi invece ho scritto i primi capitoli, sono venuti bene, sono piaciuti e quindi il libro è fatto adesso. Senti, guai ai baci, così grande, così lontano, ricordo di mio padre. Ci puoi un attimo dire qualcosa in più su come hai deciso di affrontare, dopo un articolo, di andare più a fondo e per esteso rispetto all'argomento? Beh, ho deciso di farlo perché erano dei ricordi che ho voluto scrivere per cercare di non dimenticare quello che è avvenuto tra di noi, e anche forse perché c'erano tante cose che non ci siamo riusciti a dire mentre mio padre era vivo, quindi ho pensato che sarebbe stato bello scriverle. Senti, poi che tipo di riscontri? Già ne hai parlato un po' in giro, ho sentito anche a Hollywood Party un tuo intervento sulla presentazione del libro. E che tipo di curiosità e attenzione c'è intorno al libro? C'è stata una grande richiesta di parlarne in radio, per fortuna, meno in televisione. È curioso perché si parla di Monicelli da un punto di vista che non si conosce, cioè dal punto di vista umano, sì. da come era lui come padre, che era un padre molto complicato, molto difficile, un grande esempio sicuramente, però un padre che è stato abbastanza lontano da quello che è la funzione paterna in assoluto. Sì. Senti, Ottavia, la presentazione, intanto ricordiamo, ma ci torneremo anche sopra dopo, oggi pomeriggio alle 18 alla Feltrinelli, alla Galleria Alberto Sordi, alla Galleria Colonna. Come pensavi di farla questa presentazione? Che cosa hai pensato? Ma io veramente non ho pensato niente, sono in un'ansia totale da una settimana. Saranno accanto due persone che hanno conosciuto papà, Francesco D'Aiala, che è un giornalista di cinema, quasi esperto di Monicelli, e un regista, Francesco Martinotti, che ha lavorato con mio padre nelle Rose del Deserto. Quindi affido a loro tutta la presentazione perché io faccio acqua da tutte le parti. Senti, per la realizzazione del libro è tutto, hai attinto al tuo vissuto o anche guardato un po', spulciato negli archivi rispetto al lavoro di papà? No, ho attinto al mio vissuto, e poi ci sono delle testimonianze molto belle di alcune persone che hanno lavorato con mio padre o di alcuni amici che ne raccontano degli aneddoti. Poi parlo anche di te, eh? Accidenti. A parte che io ci sarò oggi, quindi avrò anche modo di verificare come certo. Vengo trattato nel libro. Senti, Ottavia, vieni trattato malissimo. Parlo male, parlo malissimo di te. Non ti aspettare niente. No, figurati. Sto scherzando. Senti, Ottavia, allora, visto che c'è un cerchio che riunisce insieme tuo papà, te e questa radio, qual è un ricordo legato appunto a questi tre elementi che ti viene in mente pensando, ecco, anche al tuo vissuto qui dentro? Beh, sicuramente il fatto che papà fosse un grande ascoltatore di Radio Onda Rossa mi riempie di gioia, perché comunque abbiamo condiviso questa passione entrambi, e poi è una grande ricchezza quella che tu hai raccolto con Visionari dei suoi interventi durante la trasmissione. È una cosa che tutti gli amanti di Mario Monicelli dovrebbero riuscire a ascoltare, perché sono veramente delle piccole perle divertentissime e molto interessanti. Sì. Senti, Ottavia, ma si possono ascoltare, no? Sono in guarda, sono io in podcast. Sì, sono in podcast. Io, tra l'altro, siccome mi piaceva anche promuovere, insomma, questo tuo lavoro, questo, insomma, questa cosa che hai realizzato, ho inviato alla newsletter sia del radioteatro che del cinema questo invito di oggi, e c'è anche il link che rimanda sia all'archivio di Stona Favola, alla pagina Facebook, ma anche a quella pagina chiaramente della radio, del sito internet della radio, e poi ci sono gli interventi audio di Mario, l'ho messi come altro sono link. Bellissimi. Sì. Grazie. Senti, grazie a te, Ottavia. Io spero di sentirti presto da questi microfoni. E noi ci vediamo fra poco, alle 18, alla Feltrinelli, Galleria Alberto Sordi. Numero 3135. Benissimo. Roma. Un abbraccio, a dopo. Grazie, Federico. Ciao a tutti. Ciao.